Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa volta parliamo di due libri di storia economica, due classici dell'economia, anzi il primo è un'antologia di classici dell'economia, il secondo è un libro di Friedrich von Hayek. Il primo libro è Tra Stato e Mercato ed è appunto l'antologia curata dal professor Francesco Pulitini. Buonasera professor Pulitini. Buonasera. Il professor Pulitini insegna all'Università di Siena e ha messo insieme, possiamo dire così, questo libro con la collaborazione di Ennio Bilancini e Giuseppe Lauricella per IBL Libri, Istituto Bruno Leoni Libri. Quindi già l'editore, l'Istituto Bruno Leoni, è una think tank liberale, vuol dire che la prospettiva di questo libro è una prospettiva liberale, professor Pulitini. Certamente, sì. Ecco, il secondo libro è La via della schiavitù di Friedrich von Hayek. Ovviamente non abbiamo Friedrich von Hayek, ma la prefazione è stata scritta da Raffaele De Mucci. Buonasera De Mucci. Buonasera. Raffaele De Mucci insegna alla LUIS di Roma e questo libro è edito da Rubettino nell'ambito della biblioteca austriaca e Friedrich von Hayek è uno dei maggiori esponenti della scuola austriaca dell'economia. Ecco, io vorrei chiedere, iniziando proprio dal professor De Mucci, qual è l'attualità di von Hayek adesso? Questo libro è uscito per la prima volta 50 anni fa, lei lo ricorda nell'introduzione nella sua edizione italiana. Il libro, lo ricordo, si intitola La via della schiavitù. Professor De Mucci. Ci sono molti spunti di attualità, molti spunti validi per il mondo attuale, insomma, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico. Questo ne fa un impreziosisce ancora di più il testo di Hayek che ho avuto l'onore di tradurre e di prefare in quest'ultima edizione da Rubettino. Ci sono numerosi riferimenti, diciamo, che possiamo trarre per l'attualità. Uno su tutti è il trionfo della democrazia liberale per via evolutiva, cioè la democrazia liberale si impone sugli altri regimi e quindi decreta il fallimento dei totalitarismi, dei regimi totalitari, proprio in virtù della sua supremazia etica, politica, economica, dovuta appunto al rispetto delle leggi di mercato. Ecco, ma che cosa significa la via della schiavitù? Che cosa intende schiavitù intende von Hayek? La schiavitù e l'oppressione che derivano dal totalitarismo fondamentalmente. Allora, nel libro, una buona metà del libro è dedicata alla spiegazione dei motivi per cui, quasi obbedendo ad un istinto masochistico, numerosi popoli del mondo occidentale durante l'avventura del fascismo e poi del nazismo e quindi del totalitarismo sovietico hanno barattato la propria la libertà, che è la virtù secondo Hayek, il sentimento innato nell'uomo, intoccabile, non negoziabile, con il socialismo, la libertà, la giustizia sociale, il patto bayesiano per così dire. E questo per Hayek conduce inevitabilmente a regimi oppressivi che nullificano qualsiasi istanza di libertà. Ecco perché rendono gli uomini appunto progressivamente degli schiavi. Ecco, questo avviene anche nell'ambito delle democrazie formali. Lei nella sua prefazione ricorda appunto come ci sia un rischio di distacco dei cittadini dalla politica, quando la corruzione ha la meglio sulla meritocrazia, il burocratismo sull'efficienza, il servilismo sull'indipendenza di giudizio, l'immoralità sulla virtù, l'illegalità sullo Stato di diritto. Quindi la democrazia reale è qualcosa da salvaguardare, la libertà all'interno della democrazia, il messaggio di Hayek è un po' questo, è qualcosa da salvaguardare ancora di più. Ha detto molto bene, io già nella... traducendola per i tipi del Rizzoli, una delle versioni del libro, mi accorsi del mitore, dello splendore di questo capitolo 10 a cui lei fa riferimento e che si intitola non a caso Perché emergono i peggiori, che è un po', diciamo, il problema, il cruccio che si abbatte su molti governi occidentali, su molte società occidentali. Perché abbiamo il trionfo anziché del merito, anziché delle virtù, delle conoscenze, eccetera, abbiamo invece il trionfo dei mediocri. E questo avviene per Hayek per una ragione fondamentale, perché quando si mettono da parte le regole di competizione, che non valgono solo per il mercato, valgono per la scienza, valgono per ogni altro aspetto, diciamo, della vita sociale, evidentemente si mettono in piedi le condizioni perché i migliori possano soccombere, debbano soccombere, e i peggiori invece emergere. Ecco, alcuni brani di Aia che sono compresi anche nell'antologia Tra Stato e Mercato, curata da Francesco Pulitini. Il primo parla di l'uso della conoscenza nella società ed è proprio, direi, uno dei brani centrali di questa antologia, che va da Adamo Smith fino a Romani e da Franco Romani, che è un pensatore italiano forse poco conosciuto. E io volevo chiedere proprio a Francesco Pulitini: in questa antologia compaiono alcuni autori italiani come Bruno Leoni e come lo stesso Romani, ma il pensiero economico italiano ha comunque contribuito all'avanzata, alla crescita del dibattito nell'ottica liberale, professor Pulitini. Sì, sì, certamente. È inutile e superfluo, diciamo, ricordare Einaudi tra gli economisti, che purtroppo, diciamo, nell'antologia non è potuto entrare perché già ha dimensioni notevoli l'antologia, ma ci è sembrato forse più interessante, perché, come ha detto lei, appunto, non poi così noti, mettere i contributi degli italiani, quelli di Romani e quelli di Bruno Leoni, appunto, che diciamo sono abbastanza poco noti, se non altro non addetti ai lavori, ma non per questo forse altrettanto importanti, importantissimi proprio nella chiave dei discorsi che stiamo accennando. Quelli di Romani mi sembra che nell'antologia ce ne siano tre, ma insomma, diciamo, il lavoro in generale di Romani ha contribuito in maniera notevole a trasferire, diciamo così, per vista la sua esperienza prima di studioso, particolarmente attenta appunto al pensiero liberale, e poi di persona impegnata nella prima composizione dell'antitrust italiano, quella a partire dal 1990, impegnata come appunto componente dell'antitrust, appunto, ha contribuito, dicevo, a trasferire dal piano teorico a quello pratico le tesi liberali, particolarmente sui limiti della regolazione. Ecco, questo è una cosa molto importante, perché quando si passa appunto dall'elaborazione teorica, dalla riflessione eccetera, alla pratica delle decisioni, delle scelte, e si riesce a trasferire dalle prime alle seconde quello che hanno da dire e quello che dimostrano, insomma, è un'operazione, è un fatto particolarmente rilevante. Bruno Leoni, sì, che forse, non lo so se è altrettanto poco noto o forse ancora meno noto, se non altro perché scomparve in età molto anticipata, diciamo così. Lui era un filosofo del diritto fondamentalmente, e quello che a me sembra, e credo che traspaia anche dal saggio suo riportato nell'antologia, particolarmente, almeno una delle note più importanti, più caratteristiche del suo lavoro, del suo pensiero, è la contrapposizione, diciamo così, tra il diritto concepito nella sua concezione evolutiva, diciamo, che si sposa molto bene con quello che accennava prima ad Hayek, quindi la contrapposizione, dicevo, tra la concezione evolutiva del diritto, contrapposto il diritto così concepito alla legislazione. La prima, il diritto che si sposa, la sua accezione evolutiva, appunto, che si sposa molto bene con l'economia di mercato, mentre appunto la legislazione si attaglia perfettamente all'economia pianificata. E questo è una chiave di lettura molto utile, molto appunto necessaria per capire, insomma, che con le leggi non si può, nemmeno in linea teorica, risolvere tutto, e il saggio sui limiti della conoscenza, appunto, il significato della conoscenza di Hayek, riportato nell'antologia, c'è proprio la partenza, l'origine, la matrice di questo ragionamento, perché la conoscenza non può mai essere così concentrata in qualcuno, ovvero sia nel legislatore, da poter dar luogo appunto a leggi che risolvano quello che si intenderebbe risolvere. Piuttosto la conoscenza è completamente molto diffusa, per cui bisogna trovare delle istituzioni, delle leggi, delle cose che permettono di farla emergere, questa conoscenza diffusa. Beh, ora non posso Sì, sì, no, certamente il problema è complesso, il problema della conoscenza è certamente importante, così come quello del diritto. Il liberalismo è una teoria in cui le regole sono comprese, le regole che sono uno strumento, non sono una guida etica della società, ma sono uno strumento per rendere gli uomini più liberi e per liberarli in fondo anche dalla schiavitù di cui parla Hayek. Io ringrazio Francesco Pulittini e Raffaele De Mucci. Francesco Pulittini ha curato il libro Tra Stato e Mercato, Libertà, Impresa e Politica nella storia del pensiero economico, da Adamo Smith a Roland Coase, edito dall'Istituto Bruno Leoni, per un'antologia di 620 pagine e costa 25 euro, mentre Raffaele De Mucci ha fatto la prefazione al libro La via della schiavitù di Friedrich von Hayek, edito da Rubettino, 290 pagine per 18 euro. Ci fermiamo qui, ringrazio Filippo Aureggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica a tutti.